per quest'ultima meditazione pensavo di riprendere il Vangelo di San Luca, quel racconto di quello che succede dopo che i due discepoli di Emmaus corrono nel cenacolo, tornano a Gerusalemme, no? Quindi non sappiamo perché andavano via, però senz'altro la notizia è così grande che fa cambiare un programma, gli fa perdere la paura, tornano, gli fa ritrovare l'unità con la Chiesa, no? Il fatto di avere visto Gesù risorto in una simpatica, in una bella, bellissima poesia, in quel libro di quel poema sulla Settimana Santa, sulla Pasqua, che tradotto in italiano un poeta cileno, Ibáñez Langlois, no? Che nel fare una poesia su questo argomento è simpatico perché si mette nei panni della locandiera che sta portando le pietanze e scompaiono tutti, no? Dice: come, siete due, tre? No, poi non c'è più nessuno, e quindi rimane un po', è l'unico elemento negativo di questo brano, che se sono in una locanda, la locandiera è rimasta senza quella piccola gratificazione commerciale di avere il conto pagato. Comunque, poi magari non si dice che è una locanda, perché ci siamo noi che ce lo inventiamo, no? Magari era a casa loro, no? Resta con noi perché si fa sera, il giorno ormai è al tramonto. Quindi loro corrono al cenacolo, dove ritrovano riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, perché il gruppo è sempre più largo, no? Ci sono le donne e altri, no? I quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Allora anche qui, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Anche questo è molto bello, vedere come meditavamo anche sul racconto di Giovanni, quindi Maria Maddalena che viene incitata da Gesù ad andare nella realtà della Chiesa, nella comunità, nella famiglia della Chiesa, tra i suoi fratelli e le sue sorelle, e lì trova Gesù, e così accade anche a questi, no? Gesù li ha lasciati, però poi si fa ritrovare da loro lì, no? In questo caso non ha detto andate, ma sapeva che sarebbero andati, era così forte il riconoscimento di Gesù nello spezzare il pane, no? E Gesù è presente nella Chiesa, no? E sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro, e noi dobbiamo sempre meditare su queste caratteristiche dei discepoli che ci possono sembrare eccessive, perché noi siamo abituati alla fede nella risurrezione, ma per loro è una cosa totalmente nuova, no? E sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Questi sono le colonne della Chiesa, eh? Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma. Questo perché noi perdiamo la paura delle nostre fragilità, dei nostri difetti, perché il Signore ci incita a essere suoi figli, lo siamo già, ma suoi apostoli, forse non solo a prescindere dai nostri difetti, ma anche grazie ai nostri difetti, perché non predichiamo noi stessi, ma predichiamo Cristo crocifisso e risorto. Per cui, se fossimo bravissimi, faremmo vedere noi stessi, no? E non è questa la logica di Gesù, del cristianesimo. Anche San Paolo diceva: io predico, ecco, Cristo e Cristo crocifisso, Ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Quindi le piaghe di Gesù, che lui mantiene nella resurrezione, sono come il segno di riconoscimento che è proprio lui, no? Toccatemi e guardate. Quindi un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Ve l'abbiamo già detto altre volte in questi giorni, dobbiamo sempre stupirci di fronte alla passione che Gesù ha per la nostra umanità e per la sua, no? Alla positività che ha nei confronti della nostra umanità. Guardate, toccatemi e guardate, no? Vi ricordate che anche all'inizio del Vangelo di Giovanni i primi due, Andrea e l'altro, che noi ci immaginiamo che sia Giovanni, che vanno da lui a dire: maestro, dove abiti? Venite e vedrete. Cioè Gesù conta molto sul fatto di vedere, di fare esperienza, di toccare con mano la realtà della Chiesa, la realtà del suo corpo risorto. E pensate che tutti i sacramenti sono tutti così, no? Hanno una dimensione tangibile, visibile. E il battesimo, ecco, che viene unto col crisma, e poi dopo l'acqua che cade sul capo o viene immerso, e così la cresima, no? E anche addirittura c'è proprio quel tocco, oltre al segno della croce sulla fronte, che il tocco di quella carezza di incoraggiamento, no? del cresimando. E così nella confessione, a parte che c'è un dialogo che è una realtà molto, molto umana, anche, no? Umanamente, di conforto, confidarsi e l'ascolto comprensivo è molto umano. Però poi questa realtà umana dell'amicizia, del dialogo amichevole, nella confessione sacramentale, nella penitenza, diventa sacramento, diventa presenza di Gesù che perdona e poi conforta e consiglia. E poi qualche volta si vede, altre volte non si vede, però c'è il sacerdote impone le mani, che questo è anche un gesto, no? Tipico della benedizione, tipico del dire: ecco, il Signore scende su di te. E poi il matrimonio è addirittura, alcuni teologi si diceva appunto, la materia è proprio è il corpo stesso dei coniugi, no? E quindi che si scambiano la loro persona, se la donano, vicendevolmente, quello è il sacramento. Poi il sacerdote assiste, il sacerdote benedice, ma sono i coniugi che sono i ministri del sacramento, e la materia è proprio questo lo scambio delle proprie persone, il dono reciproco di sé, no? È definitivo, unico, indissolubile e anche aperto alla possibilità del donare la vita, della procreazione, no? E così l'unzione dei malati, no? Che si chiama adesso così, degli infermi, è proprio, ecco, Gesù che impone le mani, che anche lì con l'olio degli infermi unge la fronte e le mani per dare forza, no? E il sacramento dell'ordine è lo stesso, anche lì vengono unte le mani del sacerdote con il crisma, e poi il vescovo che appoggia le mani, no? Sul capo, poi dopo sono le parole della consacrazione. E così, no? I sacramenti sono forze che escono dal corpo di Cristo, e questo lo si nota l'Eucaristia, che è il culmine contiene l'autore appunto è Cristo stesso, e si fa mangiare da noi, no? Prendete e mangiate. è un atteggiamento simile a questo: toccatemi, guardate, no? E così, o prendete, mangiate e prendete, bevete, no? Anche con il sanguis, che in qualche circostanza è anche possibile ricevere, no? Anche per i fedeli laici che partecipano all'Eucaristia. E dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi, ma poiché per la gioia non credevano ancora, prima c'è paura, poi c'è gioia, ma tutte e due portano a non... insomma, sono molto confusi, no? Ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Vedete questa domanda così frequente in Gesù risorto, se avete qualcosa da mangiare. Figlioli, avete qualcosa da mangiare? Sembra quasi un po' prenderli in giro, no? Quando sono lì dopo una notte di pesca andata a vuoto. Ma no, veramente no. In quel senso Gesù colpisce un po' l'orgoglio maschile che nel lavoro deve, insomma, riuscire a ottenere risultati, se no, invece li aiuta a capire che anche nel lavoro l'azione di Dio è importante, no? Anche per poter lavorare bene, no? E noi qualche giorno fa parlavamo, cioè ieri parlavamo dell'offrire il lavoro al Signore, ma possiamo anche pregare perché il lavoro possa svolgersi nel miglior modo possibile, pregare perché riusciamo a lavorare più rapidamente anche, no? Don Alvaro, mi ricordo che Don Alvaro del Portiglio, adesso beato, che quando veniva a trovare noi che studiavamo teologia a Roma per, anche in vista del sacerdozio, e a volte veniva proprio in una casa lì vicino a dove abitavamo noi a Saxa-Ruba, una casa adibita proprio per il prelato dell'opera, perché doveva fare un certo lavoro con più tranquillità e concentrarsi, e chiedeva a noi preghiere perché lui potesse fare bene questo lavoro. A me un po' colpiva, perché così nella mia ingenuità giovanile pensavo: ma il lavoro, se uno è capace lo fa, poi dopo basta, no? E invece poi possiamo sperimentare questo, no? A me recentemente è successo, ero proprio stretto, dovevo fare un lavoro che aveva una scadenza che riguardava anche molte persone. Ho chiesto un po' di preghiere e di fatto è andato liscio, cioè ci ho messo 2 ore invece che analoghi lavori ho messo 4 o 5. Poi soprattutto quando lavoriamo in equipe, pregare per il lavoro, vi sorprenderete, perché scoprirete che il collaboratore che in genere mette sempre ostacoli, che non gli va mai bene niente, il capo ufficio che sempre deve dire no, però rifallo così, invece gli va bene tutto, frutto della preghiera, Non dico che vada sempre così, però perlomeno possiamo fare l'esperienza, no? Chiedere preghiere, no? Per il lavoro, al marito, ai figli, agli amici, alle monache di clausura, a quelli che pregano, no? Per riuscire a fare il lavoro in un tempo più, cioè che vada bene, perché a volte non dipende solo da noi, dipende da, appunto, dall'equipe in cui lavoriamo, dall'ufficio in cui lavoriamo, dalle problematiche che arrivano. Riuscire a concludere il lavoro per tempo, per poter dare tempo alla famiglia, no? E a volte c'è questo grande contrasto, no? Famiglia, lavoro, difficilmente, a volte sì, bisogna risolverlo col part-time, con tanti trucchi del tutto opportuni e leciti, anche da far crescere a livello sociale come abitudini, come mentalità, come legislazione, come tutto, e questo è compito vostro anche. Però altre volte l'aiuto del cielo ci può aiutare a fare in modo di che le cose, ecco, no? Vanno bene, che non, che, non, che quando abbiamo stampato un documento non troviamo il refuso, eh? E qui dobbiamo ristamparlo, no? Che la fotocopiatrice funzioni, che ci sia la carta dentro, no? Che il fax funzioni, insomma, che arrivi, tutte queste cose qua, no? Quindi la preghiera per il lavoro, no? E, avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Pensate che dignità ha il cibo, pesce arrostito, perché ha la dignità di essere apparso in ben due racconti della resurrezione, no? E quindi Gesù, il corpo risorto, che è quello che avremo anche noi, il corpo risorto di Gesù, è un corpo che può mangiare, magari non ha bisogno di mangiare, però può mangiare. E quindi vedete anche questo dovere, no? Che noi, che poi attraverso il lavoro culturale di tanti secoli, innervato di cristianesimo nella nostra zona di vita, è diventato arte del cucinare, del cibarsi, insomma, è reso questo dovere di natura, perché dobbiamo sopravvivere con il cibo, è reso una realtà spirituale, no? Che la mente dell'uomo e la sua cultura trasforma quegli alimenti per renderli sempre più gradevoli e nutrienti, e quindi quel momento diventa un momento anche spirituale, no? E di unione della famiglia e di dialogo su questioni di grande importanza o belle. E questa realtà così doverosa, e pensate, noi possiamo pregare perché so che perché l'Expo che adesso fra qualche giorno si apre a Milano possa creare tutta una cultura che aiuti in una certa misura a, se non a risolvere del tutto, però a favorire un avvicinarsi alla soluzione del famoso e annoso problema della fame in tante parti del mondo. E allora, Gesù dà dignità al toccare, al guardare, al mangiare. Sono realtà umane, i nostri sensi esterni, no? Mi ricordo che Sant'Agostino, in quel famoso brano delle Confessioni, in cui dice a Dio, quando scopre Dio, no? Quando trova Dio, la bellezza sempre antica e sempre nuova, tardi ti ho amato, vi ricordate, no? E Sant'Agostino, nel dire come ha fatto Dio con lui per farsi scoprire, cita tutti e cinque i sensi esterni. Dio lo ha colpito nella vista, nel gusto, nell'olfatto, nel tatto, nell'udito. E dobbiamo promuovere una cultura dell'armonia di tutto l'essere umano, cioè non c'è nulla che sia negativo nell'essere umano. Cioè, l'unica cosa che è male è il peccato, e il peccato è una realtà della mente, del cuore. Gesù lo ha spiegato a tutta la cultura in cui lui viveva, in cui invece loro buttavano il peccato su alcuni gesti esterni, no? Mangiare quella cosa, toccare quell'altra. Diceva, il peccato viene dal cuore dell'uomo. È una realtà intima, spirituale, il peccato è una scelta, no? Poi a volte diventa un'azione, quindi anche ha una sua concretizzazione esterna che si può anche notare, no? Però per sé è cuore dell'uomo, no? È un atto libero, un atto umano, ma tutto il resto, tutta la natura umana è buona, perché è stata creata da Dio. Poi, come conseguenza del peccato, avrà e ha delle fragilità, delle cose che non controlliamo bene, ma dobbiamo promuovere una cultura dell'armonia di tutta la dimensione umana e una positività di tutte le scienze, perché le scienze, se sono vere, se ci portano la verità, dicono qualcosa del mistero di questa creazione che Dio ha creato e che ci ha messo nelle mani e che ci ha chiesto di conoscere. Quindi l'essere umano, speriamo, no, che possa sempre più conoscere, ma per dare gloria a Dio e anche per rendere la vita, il cammino della vita sempre più amabile e bello a tutti i nostri simili. E tutti i sentimenti, no? Tutto quello che noi abbiamo è creato da Dio e serve al nostro, a compiere il nostro fine. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Vedete Luca com'è positivo, no? Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Gesù sa che non hanno ancora la forza per andare in giro a predicare, devono rimanere in città e aspettare lo Spirito Santo. La Madonna li aiuterà molto, sarà lì presente con loro nel cenacolo. A un certo punto San Luca, sempre, e lui probabilmente l'autore degli Atti degli Apostoli, dice che erano 120 in quella sala, e lì scelgono, vi ricordate, Mattia, no? Perché sostituisse Giuda, e tirano a sorte, no? E allora lo Spirito Santo gli dà questa forza e loro subito cominciano a parlare di Gesù senza più paura, no? E noi i doni dello Spirito Santo ce li abbiamo, li possiamo chiedere sempre di più, li riceviamo nei sacramenti, li possiamo invocare preparandoci alla Pentecoste, questo tempo di Pasqua, per avere la forza dall'alto, per cui possiamo essere fiduciosi della nostra capacità di svolgere l'apostolato che il Signore ci chiede, e a tutti noi ce lo chiede nella normalità della nostra situazione, della nostra vita, tra gli amici, i colleghi e i conoscenti, o attraverso le opere educative o di qualunque genere che possiamo promuovere o aiutare a stare in piedi, no? E allora in questo apostolato io volevo leggervi e con questo conclude alcune parole bellissime del Papa. Tutta l'Evangelii Gaudium è una magna carta, no, dell'apostolato, no? Anche per la Chiesa nel mondo attuale e nell'epoca attuale. Quindi dobbiamo attingere tantissime, ricchissima, tantissimi spunti e tornare, no? Allora a un certo punto lui parla dell'annuncio, del kerigma, no? Il mandato missionario del Signore, che poi dopo leggiamo nel Vangelo anche in altri brani. Il mandato missionario del Signore comprende l'appello alla crescita della fede quando indica: insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Questo è Matteo. Così appare chiaro che il primo annuncio deve dar luogo anche a un cammino di formazione e di maturazione, che noi ci proponiamo di continuare, no? O di iniziare, di continuare dopo questi giorni. L'evangelizzazione cerca anche la crescita, il che implica prendere molto su sé ogni persona e il progetto che il Signore ha su di essa. Ciascun essere umano ha sempre di più bisogno di Cristo, e l'evangelizzazione non dovrebbe consentire che qualcuno si accontenti di poco, ma che possa dire pienamente: non vivo più io, ma Cristo vive in me. Questo è quello che diceva San Paolo, e noi ci siamo ricordati anche durante l'omelia di una messa di questi giorni che Gesù dice ai discepoli nel Vangelo di Giovanni: io, ecco, dopo aver detto venite vedrete, lungo quei 3 anni gli dice: io dove abito, mi chiedete voi, dove dimoro in voi che mangiate la mia carne e il mio sangue. Poi quando nell'ultima cena fa la parabola della vite, dice rimanete nel mio amore, cioè dimorate, rimanete in me, dimorate nel mio amore. E poi lui dice, poi se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Per cui in effetti Cristo risorto è presente nel cristiano. Se volete andare a rileggere quella omelia del giorno di Pasqua di San José Maria che si chiama Cristo presente nei cristiani, e questo è il messaggio che dà, cioè Cristo risorto dov'è? Presente nel cristiano. Dove lo vediamo? Era la famosa richiesta di Nietzsche, no? Che voleva vedere nel volto dei cristiani il volto del risorto, e quindi diceva che in quel caso lui forse, ecco, diceva che forse si sarebbe convertito, ecco, non ricordo le parole esatte, ma il volto del risorto cercano in noi le persone, tutti, anche gli altri credenti cercano in noi il volto del risorto, no? Che non significa che il volto nostro a volte sia invece il volto del risorto addolorato e soffrente dell'orto del Getsemani, della croce, ci mancherebbe, no? È ovvio che a volte è così, e a volte quelle piaghe rimangono, no? Rimangono per sempre. Però, se non altro, ecco, quella... possiamo chiedere a Maria che ci dia il sorriso con cui lei ha visto per prima, secondo la tradizione così, ed è logico che sia così, Gesù risorto. Non è scritto nel Vangelo, ma è un'antichissima tradizione. A tu per tu Gesù sarebbe apparso a lei. E vi immaginate la gioia di Maria, il sorriso di Maria, ecco. Quel sorriso, cioè il volto del risorto che si riflette in lei, anche questo possiamo chiedere al Signore che sia in noi. Non sarebbe corretto interpretare questo appello alla crescita esclusivamente o prioritariamente come formazione dottrinale. Si tratta di osservare quello che il Signore ci ha indicato come risposta al suo amore, dove risalta insieme a tutte le virtù quel comandamento nuovo che è il primo, il più grande. Il Papa va dentro nella nostra psicologia, cioè sa che noi subito pensiamo a osservare quello, pensiamo subito a tutta una morale con una serie di comandamenti, e invece il Papa dice in primo luogo si tratta di osservare quel comandamento nuovo che è il primo, il più grande, quello che meglio ci identifica come discepoli. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato voi. È evidente che quando gli autori del Nuovo Testamento vogliono ridurre ad un'ultima sintesi, al più essenziale, il messaggio morale cristiano, ci presentano l'ineludibile esigenza dell'amore del prossimo. Chi ama l'altro ha adempiuto la legge, pienezza della legge e la carità. E se adempite quella che secondo la scrittura è la legge regale, amerai il prossimo tuo come te stesso, fate bene, Giacomo, no? San Giacomo. E tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso, lettera ai Galati. San Paolo proponeva alle sue comunità un cammino di crescita nell'amore: il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti. E d'altro canto, questo cammino, dice il Papa, di risposta e di crescita è sempre preceduto dal dono, perché lo precede quell'altra richiesta del Signore, battezzandole nel nome di Cristo. Quindi il battesimo è un dono, no? L'adozione a figli che il Padre regala. E questa, il Papa ribadisce che questo kerigma, cioè l'essenziale, no? L'essenziale del messaggio che i primi cristiani passavano tra di loro, cioè, e lui lo dice così, il primo annuncio: Gesù Cristo ti ama. Quindi vedete anche nell'apostolato, a volte noi abbiamo un po' di difficoltà perché temiamo di mettere in difficoltà l'interlocutore, di non abbiamo diritto ad entrare nella sua intimità, è vero. Però dire Gesù Cristo ti ama, lo possiamo dire a chiunque serenamente, no? Non stiamo chiedendogli come lui sta, se crede o non crede. Ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. È il punto 164 della Evangelii Gaudium. quei punti intorno al centro santo sono tutti, è tutto molto bello, ma comunque, perché poi a un certo punto c'è anche un punto che però non possiamo leggere adesso, decisivo, su coloro che invece, dopo aver fatto molto apostolato, appunto stanno come gli apostoli della notte senza prendere nulla, cioè le delusioni. 169, quello è il punto. Ed è un punto bellissimo, in cui il Papa incoraggia tutti, che dice che comunque è tutto sempre efficace, no? E non dobbiamo cercare risultati. Quando diciamo che questo annuncio è il primo, cioè quindi Gesù è al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, rafforzarti, liberarti, non significa che sta all'inizio e poi si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. Poi dopo, quello te l'ho già detto all'inizio, no? È come quando voi, giustamente una moglie dice al marito che ha bisogno di sentirsi dire ti amo, no? Non basta averlo sentito dire il giorno del matrimonio o un po' prima, no? Beh, te l'ho già detto una volta, basta, no? Cioè, siccome non ho cambiato idea, rimane. Invece, così anche nel primo annuncio che Gesù ti ama ed è vicino al tuo fianco, dobbiamo continuamente ripetercelo. No? E non vedere che è il primo. Poi adesso ti ho detto questo, adesso ti martello su altre cose, no? È il primo in senso qualitativo, perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi, che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. E poi aggiunge una cosa che, chissà perché, ma dice: per questo anche il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del suo permanente bisogno di essere evangelizzato, no? Si vede che poi anche noi abbiamo bisogno, sacerdoti, di sentirci dire questo e poi per poi dirlo, no? Non si deve pensare che nella catechesi il kerigma, questo, cioè questo annuncio essenziale che vi ho detto, no? Gesù ti ama, ha dato la sua vita per te e ti sta sempre vicino, venga abbandonato a favore di una formazione che si presupporrebbe essere più solida. Non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente, di più saggio di tale annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l'approfondimento del kerigma, cioè di questo annuncio, che va facendosi carne sempre più e sempre meglio, che mai smette di illuminare l'impegno catechistico e che permette di comprendere adeguatamente il significato di qualunque tema che si sviluppa nella catechesi. È l'annuncio che risponde all'anelito di infinito che c'è in ogni cuore umano. La centralità del kerigma richiede alcune caratteristiche dell'annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo, che esprima l'amore salvifico di Dio previo all'obbligazione morale e religiosa. L'amore di Dio viene prima. Che non imponga la verità, che faccia appello alla libertà, che possieda qualche nota di gioia, stimolo, vitalità e un'armoniosa completezza che non riduca la predicazione a poche dottrine a volte più filosofiche che evangeliche. Questo esige dall'evangelizzatore alcune disposizioni che aiutano ad accogliere meglio l'annuncio: vicinanza, apertura al dialogo. Non abbiate paura del dialogo mai, no? In questo mi colpì, il Papa attuale colpisce molto, anche Benedetto XVI, ma anche Giovanni Paolo II, no? Cioè lui, cioè questi erano una libertà di spirito straordinaria. Giovanni Paolo II nel Concilio Vaticano II leggeva Il Capitale di Marx, e quando qualche suo collega ha detto: beh, insomma, questo è un libro un po', cioè, no, che ti imparo, no, io faccio questo lavoro, poi no, e faccio il filosofo, devo leggere, ma insomma, poi non, a me non fa male, cioè, quindi, e quindi Benedetto XVI dialoga con qualunque autore, con qualunque, non ha paura di nessuno, no? Ed è il Papa, è il primo Papa che nella prima enciclica, la prima citazione è Nietzsche, quando si era abituati a fare citazioni solo di Magistero o di San Tommaso d'Aquino, no? Nei documenti pontifici. E dialoga, no? Non, quando uno, ecco, non è detto che tutti siamo capaci di questo, però non aver paura del dialogo, parlare e aspettare, no? Pazienza, accoglienza cordiale che non condanna. Adesso la pazienza voi l'avete esercitata nei miei confronti e adesso però vi tolgo questo compito di pazienza, concludendo la mia meditazione, come appunto richiamando ancora una volta il sorriso di Maria benedicente che ci benedice per il viaggio del tornare a casa, il viaggio della vita che continua.